Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Ogni tanto arriva una buona notizia politica. Quella di oggi è che il governo italiano ha fatto una cosa buona e i governi europei l'hanno seguito. Non è poco. Sentiamo Frattini. L'Italia ha ottenuto un grande risultato. L'Europa a 27 ha cancellato il testo che era sul tappeto e dal quale l'Italia si era ritirata nel negoziato e ha presentato un testo completamente nuovo. Solamente 20 paragrafi contro i 250, niente più espressioni antisemite, niente limitazioni alla libertà di espressione. Frattini, come sapete, è il nostro ministro degli esteri. Frattini aveva detto: l'Italia se ne va insieme con gli Stati Uniti, con il Canada, e se ne va senza neanche stare lì a consultare in modo protocollare, burocratico, tutti i 27 paesi dell'Unione Europea. Se ne va punto e basta. Perché? Perché a Ginevra, adesso ad aprile, si riunisce una conferenza che dovrebbe, secondo certi tra i suoi promotori, in sé una conferenza internazionale delle Nazioni Unite, dovrebbe rinverdire i fasti della conferenza che si tenne in Sudafrica qualche anno fa a Durban, nel corso della quale fu approvato un ordine del giorno infame che dice che l'aspirazione ad avere un focolare nazionale degli ebrei di tutto il mondo, cioè il sionismo, realizzatasi storicamente dal 48 ad oggi con la nascita e la vita stentata sotto assedio dello Stato di Israele, è equiparabile a una forma di razzismo, capito? Allora, questa è una assurdità e una vergogna che l'ONU si sobbarcò, che poi Kofi Annan ed altri naturalmente cercarono di stemperare, di offuscare, insomma sostanzialmente di abrogare, ma che resta nella storia delle Nazioni Unite. Volevano rifare la stessa cosa con un documento nel quale appunto sostanzialmente si riproponeva l'equiparazione. Israele è un paese razzista, essendo Israele una democrazia in Medio Oriente, essendo Israele un paese dove è rispettato il pluralismo culturale, civile, democratico. Certo, Israele è lo Stato degli ebrei, nasce come uno Stato rifugio per la comunità ebraica mondiale e naturalmente poi si sviluppa secondo una sua logica e secondo politiche che non devono essere tutte condivise dogmaticamente. I governi possono sbagliare, possono fare delle cose atroci, possono indurre delle tragedie e possono dare una speranza, ma questo non c'entra niente con la natura e il diritto ad esistere di quello Stato. Il dramma, il sottodramma, diciamo, e ne parleremo più tardi, è che a giugno, dopo la conferenza di Durban, dopo che per merito dell'Italia, come stavo dicendo, i paesi, come ha detto Frattini nella sua dichiarazione, i paesi europei adesso hanno riconsiderato la loro partecipazione a questa conferenza e hanno detto bisogna cambiare comunque il testo. Gli olandesi hanno proposto, l'avete sentito, un testo di pochi paragrafi nei quali è scomparso sia l'attacco ad Israele come stato razzista, sia il tentativo di spacciare le vignette di critica religiosa come una forma di islamofobia, quindi diciamo gli attacchi alla libertà d'espressione. Però a giugno, fine giugno, primi di luglio, si fanno a Pescara i giochi del Mediterraneo. I giochi del Mediterraneo sono una specie di Olimpiade mediterranea. E purtroppo anche lì, insomma, c'è questa cosa piuttosto, direi, controversa, molto controversa, forse inaccettabile, che questi giochi, per un verso o per l'altro, la storia è complicata, ma la sostanza è quella, si fanno senza Israele perché c'è sostanzialmente un veto ad accettare la presenza di Israele tra i competitori. E lo sport, si sa, dovrebbe essere un ponte tra le nazioni, le culture e le civiltà e non una linea divisoria. Buongiorno, 800 24 00 24. Parliamo di Israele e del suo posto scomodo tra le nazioni, parliamo di ebrei e della difficoltà ad accettare il fatto atto della loro presenza, delle loro radici come popolo, come religione, come Stato sovrano, nella forma dello Stato ebraico, però pluralista, e nel quale convivono democraticamente tutti, che è sorto nel 48 in Medio Oriente. Abbiamo al microfono Pierluigi Battista, vice direttore del Corriere della Sera, Mario Pescante è qui in studio, Mario Pescante è deputato del Popolo delle Libertà, presidente della Commissione politica sulle politiche dell'Unione Europea della Camera e commissario straordinario del governo per i giochi del Mediterraneo, quelli che si dovranno svolgere senza Israele. Giovanni Belardelli, docente di storia delle dottrine politiche, commentatore del Corriere della Sera, che ha risollevato lo scandalo della mancata partecipazione di Israele ai giochi del Mediterraneo, Yasha Raiman, portavoce della comunità ebraica di Milano. Battista, lei ha detto, questo fatto che anche i francesi, che ci avevano criticato per esserci noi sfilati dalla seconda conferenza di Durban, quella di Ginevra, il fatto che i francesi, che ci avevano criticato, adesso insieme a tutti i 27 europei siano uniti nella linea dura, cioè dire se non cambiate quel documento, se non la piantate di dire che il sionismo è una forma di razzismo, noi a Ginevra non ci veniamo, è l'indice di un cambiamento di mentalità importante. Nell'editoriale del Corriere di oggi lei questo dice, anche se aggiunge, non è affatto detto che i testi preparatori della conferenza di Ginevra saranno cambiati in profondità secondo le indicazioni delle nazioni europee. Qual è la sua previsione vera? Ma la previsione è dunque che intanto non tutti i paesi sostengono la stessa linea. Lei ha parlato della Francia, la Francia sembra la più possibilista da questo punto di vista, cioè alcuni paesi hanno detto che tassativamente se non verrà cambiato quel testo in profondità, quindi con l'eliminazione di tutte le espressioni che equiparano tutto il sionismo al razzismo, che mettono in discussione la legittimità dello Stato di Israele, non si va a Ginevra e quindi non si avrà una Durban 2, nel senso che non si verificherà più quello spettacolo sceno che fu inscenato a pochi giorni dell'11 settembre, in cui c'erano i cartelli pro Bin Laden, in cui l'equiparazione ebrei, sionisti, israeliani era evidente a tutti, mentre c'erano le organizzazioni internazionali mute, impotenti, Amnesty International che non disse nulla, i governi europei che videro questa sfilata grottesca senza dire parola e si dissociarono soltanto dal documento finale. Insomma, fu uno spettacolo assolutamente tremendo. E, diciamo, questo, alcuni dicono che appunto che senza questa garanzia che il testo preparatorio sia cambiato radicalmente non si andrà mai. In alcuni paesi europei, da quello che si è capito, questa posizione è stata accettata un po' torto collo, cioè non è detto che poi alla fine c'è anche questo particolare così un po' dubbio del Vaticano. Il Vaticano sì, che ha un ruolo di osservatore all'ONU, partecipa invece e dice no, noi partecipiamo comunque, non stiamo a fare ma insomma, è strano, no? Poi dopo il caso Williamson, insomma, in questa tempesta in cui viene messa in discussione, come mai? Non c'è bisogno di ricordare la difficoltà dei rapporti anche diplomatici tra il Vaticano e lo Stato di Israele. Mi colpì molto che a poche ore dalla dichiarazione del ministro degli esteri Frattini che l'Italia non avrebbe partecipato appunto alla conferenza di Ginevra, pochissime ore dopo è venuta la dichiarazione di un esponente importante del Vaticano che diceva no, ma noi assolutamente ci andiamo, cioè non era nemmeno messa in discussione la possibilità che si potesse condizionare quel testo. Ecco, c'è un fatto, diciamo, storicamente la delegazione vaticana all'ONU ha lavorato in stretta contiguità ideale, culturale, con una diplomazia italiana che parliamo di decenni fa, insomma, della nostra storia, ancora della Prima Repubblica, ma i sedimenti sono continuati anche dopo, andreottiana, una diplomazia andreottiana, Andreotti, le politiche pro-arabe, il tentativo. Ora, Devo dire, da questo punto di vista, la rottura è notevole, no? Nonostante gli elementi di continuità che ci sono tra le classi dirigenti di oggi e le classi dirigenti di ieri. Cioè, fa abbastanza impressione vedere che il Vaticano si attarda su una politica estera andreottiana e invece Frattini rompe questa rete, diciamo, no? Questa tela di ragno. Ma la politica estera vaticana nei confronti, diciamo, della questione medio orientale ovviamente è molto complicata, ci sono dentro molti fattori. Il prossimo viaggio a maggio del Papa prevede una visita in Israele e Giordania come unico paese, diciamo, moderato dentro quell'area. Soltanto in Giordania come paese arabo c'è un equilibrio molto molto delicato. Poi c'è la questione dei rapporti col Museo dell'Olocausto, insomma è molto complicata la questione di Gerusalemme capitale, quindi e poi la difesa e la tutela, che insomma secondo me non è un argomento del tutto secondario, della presenza cristiana nel Medio Oriente, visto che sono perseguitati in quella zona del mondo. Quindi diciamo non è tutto riferibile a una ambiguità andreottiana. In questo caso, come dire, quello che colpisce della politica vaticana è l'assoluto modo categorico con cui, diciamo, si sottrae all'idea che si possa perlomeno negoziare un testo in cui l'elemento antisemita appare in tutta la sua evidenza. Insomma, nessuno ha potuto negare questo. Le divisioni in Europa casomai sono divisioni di tipo diplomatico, certo. non nel merito, certo. Il Vaticano invece su questa questione del merito non intende intervenire assolutamente. Va bene, grazie Battista, grazie del suo contributo, arrivederci, la lasciamo al suo lavoro. Maria dalla provincia di Pistoia per una domanda che interesserà Mario Pescante. Mario Pescante è un gigante, diciamo, del mondo sportivo italiano e internazionale. Come ho detto, è un deputato ed è il commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo, che al di là di Durban 1, Durban 2 sono obiettivamente una manifestazione sportiva in cui c'è dentro un principio discriminatorio. Adesso poi la possiamo mettere come vogliamo, ma mi pare che la cosa stia così. Maria. Buongiorno a tutti. Una domanda semplice, la prima cosa che mi è venuta in mente all'inizio della trasmissione. Sì. Mi domando con quale criterio si può allontanare, non far partecipare Israele, che è un paese che, come diceva lei, Ferrara, ha i suoi difetti, ha i suoi grossissimi difetti, ma che comunque è riconosciuta come una democrazia. Come si possa non accettare un paese del genere e invece andare alle Olimpiadi in Cina, dove non c'è un diritto umanitario che viene in qualche maniera tutelato, dove non c'è libertà di fare figli, quanti figli ci pare, libertà, qualsiasi minima libertà, ecco, là in Cina andiamo con tutta la nostra presopopea, con tutte le nostre bandiere, nessuno che ha provato a indignarsi, a dire qualcosa, e poi su Israele questa cosa qui, me lo potete spiegare come mai? Bene, grazie. Pescante. Pescante è anche membro del Comitato Internazionale Olimpico, quindi sa tutto anche delle Olimpiadi. La ringrazio di questa commemorazione. Si figuri. Senta, no, era una didascalia, la prenda come una commemorazione. Vede, devo dire con molto rammarico che non dico che ci sia disinformazione, c'è scarsa informazione su questa vicenda. Lo sport non ha mai escluso nessuno per ragioni, perché come ha detto bene lei introducendo questo tema, lo sport ha sempre posto dei ponti, ha battuto barriere ogni tipo, razza, lingua, religione. Si immagini un po' se in questo discorso di Israele poteva prendere una posizione che ad esempio formalmente spesso istituzioni internazionali, prima parlava dell'ONU, che molto spesso dimentica di essere soggetto terzo tra le parti in conflitto, anzi sì. Nelle sue decisioni e nelle sue dichiarazioni, che pesano quanto le decisioni, certe volte si schiera apertamente. Mi lasci sulla prima parentesi, io sono molto lieto di quello che è accaduto, perché la nostra politica estera è sempre stata una politica estera che all'interno siamo portati a denigrarlo. Il risultato ottenuto è stato straordinario, che poi si arrivi a un cambio di mentalità, beh, qui avrei qualche... Ma non potevate fare lo stesso per i giochi del Mediterraneo? Ecco, veniamo... Noi non li facciamo i giochi se non fate Ma vede Ferrara, una premessa, lo sport non ha escluso nessuno, perché Israele e la Palestina, perché non ci dimentichiamo che qui i soggetti sono due, La Palestina partecipa alle Olimpiadi. Nessuno ha messo un veto contro la Palestina, questa è la differenza. Per la verità, la Palestina ha seguito lo stesso destino di Israele, e cioè nel momento in cui l'assemblea dei paesi doveva decidere la missione ci sono stati dei veti incrociati. Ma mi lasci anche dire che la responsabilità di questa decisione non è del mondo dello sport, è della politica. E ne sono personalmente testimone, nel senso che da 15 anni, io ero a Monaco nel 72, di fronte a quei ragazzi, due dei quali erano amici miei durante la strage, ed ero a Gerusalemme 30 anni dopo, quando c'è stata la cerimonia ahimè commemorativa, ero però a Gaza nell'insediare il Comitato Olimpico Palestinese, perché questa è la storia dello sport, cerchiamo di porre. Ecco, detto questo, però io ci tengo a sottolineare per esperienza personale che quando 11 anni fa tentammo una soluzione di compromesso, lo sport aveva la sua roadmap pacifica, cioè la missione contemporanea dei due paesi, oppure del paese del Comitato Olimpico, perché a noi interessa l'entità Comitato Olimpico e non paese. Beh, ci fu un'opposizione ferma di uno dei due paesi, delle autorità politiche dei due paesi. Poi ci ha riprovato la Spagna 4 anni fa, e avrebbero potuto partecipare a pescare due paesi solo se ci fosse stata una decisione presa 4 anni prima. E ma l'opposizione ministro... di chi, scusi? Devo dire, nel caso della Spagna c'è stata la posizione di tutte e due le autorità politiche. Di autorità politica, devo fare il mio mestiere, per cui le domande le fa il giornalista. No, 11 anni fa lei mi chiede. Io 11 anni fa, perché c'erano i giochi di Bari e la mia attività in collegamento con l'attuale presidente Giorgio Mediterraneo, che è un algerino, e con un libico, tentò a trovare un compromesso che il mondo sport aveva accettato. C'è stata un'autorità politica che è intervenuta, non mi lasci dire quale, perché questo dialogo, le autorità politiche si assumono le responsabilità delle loro decisioni. Bene, io ci tengo solo a sottolineare un aspetto che è provato, dopodiché mi lasci continuare a fare il mio lavoro, perché questo dialogo dovrà andare avanti tra i due paesi. Tengo a sottolineare che in Spagna... Ho capito, lei non vuole compromettere certo il suo potere di mediazione con una denuncia troppo specifica e troppo precisa. Allora lo dico io, Netanyahu era premier 11 anni fa, nel 94, questo è il punto. Non ricordo, è passato tanto tempo. Va bene. Però in Spagna l'opposizione è stata di tutte e due le parti. Allora, non si può chiamare in causa lo sport. E concludo dicendo, se lo sport si dovesse fermare per queste ragioni, si sarebbe fermato Olimpiadi a Berlino nel 1936, e il discorso della Cina entra in questo contesto, altrimenti fermiamoci. Lo sport è rimasto ostaggio della politica, ed è un discorso direi piuttosto usuale. Va bene, su questo fatto che Israele non è vittima di un veto, come dice l'ambasciatore di Israele a Roma, che vedo domani tra l'altro, ma non è così. Va bene, su questo fatto adesso sentiremo, dopo la pubblicità, il parere di Giovanni Belardelli, che sul Corriere della Sera afferma esattamente il contrario, e di Yasha Raiban. 800 24 00 24. Lo sport e Israele, lo sport e il razzismo, lo sport e la discriminazione. Giovanni Belardelli ieri sul Corriere della Sera ha scritto un articolo, diciamo, che ha il pregio della chiarezza. Dice: 70 anni fa le leggi razziali, abbiamo ridiscusso nell'anniversario, giornata della memoria, questa vergogna, eppure l'Italia sta per discriminare di nuovo degli ebrei sul suo territorio. È un'accusa molto dura. Parla Belardelli dei Giochi del Mediterraneo, fine giugno, Pescara, la 16ª edizione, che è organizzata da noi. E dice chiaramente che c'è un veto unilaterale, un veto contro Israele da parte dei paesi arabi, che sono una quota parte significativa, diciamo, dei partecipanti ai giochi del Mediterraneo. Alla fine del suo articolo Belardelli dice a Mario Pescante, il commissario nominato dal governo per la gestione dei giochi, il quale ha auspicato che Israele possa essere ammesso ai giochi chissà mai già a Volos, cioè nel 2013, quando si faranno di nuovo i giochi in Grecia, gli chiede retoricamente: non è un po' poco? Belardelli. Sì, ho ascoltato quello che ha detto l'onorevole Pescante, anche Netanyahu, l'ha detto lei, Ferrara presumibilmente nel 97 pose un veto al doppio ingresso di Israele dell'autorità palestinese, presumibilmente è vero, io non ho motivi per dubitarne, che ci siano anche responsabilità israeliane, ma qui c'è un fatto molto semplice, mi scusi se torno a questo fatto essenziale: dal 1951 ci sono i giochi del Mediterraneo, dal 1951 non c'è Israele, punto. Dopodiché noi ospitiamo la terza edizione, siamo anzi l'unico paese che può vantare, diciamo così, la terza edizione sul suo territorio del gioco, al momento siamo l'unico nel suo territorio. Mi sembra che qualche problemino ce lo dobbiamo porre, del fatto che dal 1951, quindi non dal 1997, dal presumibile, senz'altro ci sarà stato veto anche di Israele, c'è questa assenza che è clamorosa. Invito tutti quelli che ci ascoltano ad andare su Wikipedia, dove c'è una cartina dei giochi del Mediterraneo, in cui il Mediterraneo è circondato da paesi verdi, sono colorati in verde tutti i paesi del Mediterraneo, e poi questo cerchio si interrompe e c'è un grigetto di Israele. La cosa fa sì, un po' impressione, e fa un po' impressione, io questo avevo anche sollevato nel mio articolo, che da un lato abbiamo una enorme sensibilità di questi ultimissimi anni, ricordo che la giornata della memoria è stata istituita, se non ero nel 2000 soltanto, per questi temi, e dall'altro così ci avviamo a guardarci in televisione i giochi del Mediterraneo senza sollevare alcuna questione. Mi pare che la questione andasse sollevata, poi certo a questo punto nessuno credo possa far nulla, men che meno il commissario Pescante, che credo sia stato nominato commissario perché i giochi vengono organizzati come si deve, funzionino, tutto sia a posto per l'inaugurazione e così via. Resta un problema che personalmente pro quota, come cittadino italiano, mi sento a disagio, cioè che nel mio paese questo fa un po' la differenza, diciamo così, per noi che ne stiamo parlando, credo. Nel mio paese c'è questa discriminazione, sappiamo benissimo che anche nello sport, lo sport, manifestazioni culturali, così, ci sono discriminazioni, sono professori universitari inglesi che come possono firmano appelli perché non vengano invitati i loro colleghi israeliani, eccetera, eccetera. Però quando questo succede nel mio paese, la cosa, qualche problema mi pare lo crea. Pescante, Belardelli dice sì, si può dire tutto, però il fatto resta, Israele non c'è. Ma io però vorrei precisare una cosa, tanto saluto, ci siamo sentiti ieri per telefono, siamo rimasti tutti e due poi dalle nostre opinioni, quindi per carità, volevo dire, ma vorrei far osservare una cosa, non è vero che lo sport dal 51 non ha fatto nulla, ecco perché dicevo c'è anche poca informazione, per la verità l'Italia, diciamoci genericamente, l'Italia è stata protagonista di una soluzione per Israele che la politica, qualcuno la politica, che lo Popolei Ferrara, oltre che il partito Regale, auspica da tempo, e cioè la missione di Israele all'Unione Europea. Bene, questo è già avvenuto nello sport, cioè ero presidente europeo, uno dei compiti di quel monumento a cui lei si faceva riferimento, quando, badi bene, con il consenso della Confederazione Araba dello Sport, Israele è entrata nell'Europa sportiva. Israele partecipa alle coppe di calcio dell'UEFA, Israele partecipa alle coppe di basket. Israele ha un membro, il mio amico Zing, che è nell'esecutivo dell'Europa. C'è il problema del gioco mediterraneo, ma dico, è un po' troppo semplice. Forse dal 51 sono accadute tante cose che la politica non ha risolto in mezzo secolo. Ora, che questi problemi debba risolvere lo sport, a me pare piuttosto, come dire, atipico. E qui siamo stati sconfitti, non ce l'abbiamo fatta, ma almeno noi ci abbiamo provato. La realtà è che la politica va, la sua roadmap si è fermata, quella sportiva andava avanti. Forse non si sarebbero mai incontrate, perché solo Moro diceva che poi queste parallele si incontravano, però francamente siamo molto più avanti. Quindi ecco, addossare allo sport questa responsabilità mi pare ingiusto, lo dico ingiustificato. Sentiamo Reitman e poi Eugenio da Latina, anzi Eugenio da Latina e poi Yasha Reitman. Eugenio. Sì, buongiorno. Sì, prego. Sono in diretta? Sì, sì. Sì, sì, come no, diretta speciale, special one. Grazie. Prego. Volevo dire che questo problema che ogni tanto viene fuori di Israele, che è discriminata, messa al bando, antisionisti, antiebraici, secondo me non è così, perché se noi vediamo le differenze che ci sono tra i diritti dei palestinesi e i diritti degli israeliani, c'è il mondo è la forza che nel mondo ha il sionismo, che riesce a far parlare di Israele in maniera continuativa per un piccolo, ecco, come questa della esclusione dai giochi del Mediterraneo, mentre tutto il mondo non riesce a vedere il disastro di un territorio come quello della Palestina. Allora mi sembra che ci sia un senso di vittimismo nelle difese, nelle autodifese che si fanno di Israele, mentre non si rende conto dei disagi gravissimi che patisce un altro popolo che ancora non riesce ad avere una patria. Ecco, c'è una asimmetria, come si dice oggi, tra la forza mediatica di Israele e la forza mediatica di un popolo che nazione ancora non è. È su bene, questo sentiamo che Yasser Reimann su questo. Per essere diciamo così, giusti. Grazie Eugenio, è molto chiaro quello che lei dice. Reimann. Sì, buongiorno direttore, la saluto a nome anche della lobby che comanda i giornali, le radio. Sì, sì. Praticamente lei è il mio editore. Esattamente. Dica. No, a me sembra che sia purtroppo una sconfitta dello sport in questo momento, e in realtà di tutti noi. Cioè, però ho sentito Pescante cosa dice. Pescante dice lo sport ha fatto la sua parte, addirittura Israele è nel circuito, diciamo, dello sport europeo. Pescante naturalmente ha la facilità del doppio cappello, perché è deputato, presidente di una commissione della Camera, commissario straordinario nominato dal governo, però diciamo se la tira da sportivo, e d'altra parte ha diritto di farlo, perché ora, capito? Ho sentito Pescante e non sono d'accordo. Lo sport vince quando alle Olimpiadi gli israeliani ci sono e magari il nuotatore iraniano si rifiuta di scendere in campo. Ma lo sport perde quando a Dubai viene rifiutato l'accesso alla tennista israeliana, e lo sport perde quando in Italia, e su questo sono d'accordo con Belardelli, quando in Italia, nel nostro paese, ci sono state le leggi razziali, gli israeliani non possono partecipare. Lo sport dica chiaramente, tutti sono invitati. Se qualcuno si rifiuta di venire, sarà lui a rifiutarsi, ma che non ci sia un veto sugli altri. Pescante. Io credo che sia questa la differenza tra il rifiutare e l'essere rifiutato. Cioè lei dice lo sport non deve entrare dentro negoziati complicati che poi finiscono con una cosa che non si capisce se è un veto discriminatorio contro Israele, sembrerebbe questo il caso visto che è dal 51 che dura l'esclusione di Israele dai giochi del Mediterraneo, oppure un veto incrociato. Cioè, invece di stare a negoziare, lo sport dica tutti quelli che vogliono venire sono invitati ad essere presenti, chi non vuole venire non c'è. Certo. E se poi purtroppo la dittatura siriana o i fondamentalisti dell'Iran, ma non so chi altro, rifiutano di partecipare a questo o quel torneo, prenderemo atto che sono loro a non volerci essere. Il contrario invece vuol dire stare dalla parte di chi rifiuta, e questo noi non possiamo permetterci, perché tradiremmo i nostri principi, non perché non saremo vicini a Israele o a chi di volta in volta verrà escluso. Questo mi sembra il punto, non accettare le esclusioni. E aggiungo, si ripete il 1951, data dell'istituzione dei giochi del Mediterraneo, non è una data secondaria, perché allora quasi nessuno parlava di problema palestinese. Cioè, allora fu un'esclusione solo nei confronti di Israele, punto. Oggi, peraltro, sono passati 11 anni da quello di cui parlava Pescanti, io credo che gli israeliani sarebbero contentissimi di poter giocare le loro partite di calcio, i loro tornei di atletica, nei giochi del Mediterraneo, piuttosto che in qualunque altro tipo di torneo di competizione, anche con l'autorità nazionale palestinese. Pescanti. Ma mi lasci dire qualcosa anche sull'intervento precedente, perché purtroppo in Italia, non è solo in Italia, ma insomma c'è un po' questa pessima abitudine di politicizzare tutto, anche discorsi che sono complicati, che avrebbe bisogno forse di maggiore equilibrio. Chi è di un certo orientamento politico è a favore della Palestina, chi è un'altra e così via. Ecco, non vorrei prestarmi a questo gioco, poi ho risentito il discorso delle lobby israeliane, mi pare che tanto tempo fa questo discorso fu sostenuto in termini poi tragici, lasciamo perdere questi discorsi. La realtà è che il primo interlocutore forse ha dimenticato alcune cose al quale invece è stato fatto riferimento ora, cioè qui non solo i giochi mediterranei, ma ad una tennista israeliana è stato proibito di partecipare, ma non solo. Ma qui hanno dimenticato una cosa ancora più grave, che nell'incontro di Davis Svezia-Israele per delle manifestazioni di filo palestinesi, e questo bisogna dirlo, è stato impossibile far svolgere il match con la presenza di pubblico. Per ragioni di sicurezza, sono stati scontri. Quindi, come vede. E poi c'è quell'episodio bestiale dell'atleta iraniano. Del nuotatore che non si getta nella piscina perché c'è un nuotatore. Sì, ebreo. Ecco, c'è da dire che mi sto domandando cosa sarebbe successo con l'atleta iraniano quando tornò nel suo paese. A proposito della politica, qui certo, evidentemente certo. C'era un problema, come dire, proprio di. Sì, non è l'appunto, non è personale. Quindi, certo, ovviamente. Ma voglio fare due osservazioni invece per l'ultimo intervento. Ma nel 51 non fu esclusa Israele. Esisteva da 3 anni, se non vado errato. Israele non ha mai chiesto di far parte all'epoca, quindi non andiamo troppo lontano. La realtà è che è vero che lo sport ha perso. Ha perso a Dubai, ha perso in Svezia e ha perso in questa circostanza. Ma quante altre storie ha vinto lo sport? Non voglio ritornare al solito discorso, Stati Uniti, Cina, tennis tavolo. La Corea del Nord e la Corea del Sud che hanno sfilato insieme alle Olimpiadi di Atene. L'atleta afghana donna, ero a Kabul. Ho fatto parte anche di questi colloqui che è stata l'alfiere della squadra afghana ad Atene, il Pakistan con l'India, si sono incontrati la politica del cricket, ci sono tanti esempi di vittoria della diplomazia sportiva. Questa volta abbiamo perso, però il problema è leggermente più complicato del resto. Ora però parlare di discriminazione o addirittura di antisemitismo nei confronti dello sport, beh, io credo, trovo che questo termine è veramente esagerato, onestamente devo dire. Bene, vorrei sentire Giovanni Belardelli, il professor Belardelli, su una previsione, la mia catastrofica. E vi spiego. Dunque, allora, in Israele si sta formando il governo. Un governo di unità nazionale non sembra alla portata dei politici israeliani dopo il risultato delle elezioni. L'incarico Peres, il socialista storico, presidente dello Stato di Israele, lo ha dato a Netanyahu. Netanyahu è il capo del Likud, partito gagliardo della destra israeliana, e Netanyahu sta per formare un governo, insomma, quasi certamente che sarà un governo di destra di maggioranza risicata, in alleanza con Avigdor Lieberman. Lieberman è il capo di un partito che ha, tra le varie cose che poi gli hanno garantito un successo elettorale notevole, è arrivato terzo prima del Labour Party, dello storico partito socialista israeliano. Lieberman ha lanciato una campagna contro la slealtà degli arabi cittadini israeliani. Quando sono sleali con lo Stato, io li voglio mettere sotto controllo, ha detto Lieberman. Una cosa che ha suscitato scandalo perché intacca, diciamo, appunto, la natura di pluralismo politico e naturalmente anche etnico, eccetera, dello Stato di Israele. Allora, la mia previsione catastrofica è questa: nella conferenza di Ginevra, nella gestione dei problemi che riguardano il carattere inclusivo delle manifestazioni sportive, l'Israele di domani, di dopodomani, se avrà questo governo, sarà oggetto di nuovo della famosa, diciamo, confusione tra lo Stato, il suo diritto a esistere, e il governo pro tempore dello Stato. Per cui, tenendo conto del fatto che ci sarà una stretta politica in Israele verso destra, in alleanza con i partiti religiosi e in alleanza con Lieberman, le cose sono sicuramente destinate a peggiorare. Belardelli. Io penso che lei abbia, purtroppo, aggiungo, ragione. È probabile, visto che abbiamo parlato, l'ha citato l'onorevole Pescante, del veto del 97 che ci sarebbe stato da parte di Israele, che per quello che riguarda questo tipo di manifestazioni è abbastanza probabile che si vada verso il ripetersi di cose di questo genere. Questo io credo però che non elimini il problema, poi avendo lei sollevato la questione del governo di Israele, cosa succederà nei confronti degli arabi, e insomma il grande problema alla fine, che come molti hanno detto, è se Israele vuole restare appunto una democrazia, vista l'aumento demografico degli arabi, deve risolvere il problema palestinese, se no, diciamo, rischia per motivi interni, rischia appunto drammaticamente. Ecco, avendo sollevato questo, certo è un po' difficile, mi rendo conto, ritornare al problema problema che alla fine è un problema secondario, diciamo pure, che è quello dei giochi del Mediterraneo. Insomma, rispetto a tutto questo veramente possiamo fare pochissimo. Io però inviterei a usare le parole in senso appropriato, cioè discriminazione c'è stata, non c'è stata, mi si permetta solo questa osservazione: la discriminazione quando uno Stato non partecipa è un fatto da vocabolario, insomma. Poi insomma, non voglio tornare sulle questioni della responsabilità della politica, dello sport, probabilmente ha ragione l'onorevole Pescante, anche se non ho ben capito che l'onorevole Pescante citava insomma, i meritori sforzi andati a vuoto dell'Italia nel 97, ma il 97 è 12 anni fa. Io mi permetto così di chiedere se era allora indispensabile che l'Italia ospitasse, non essendoci stato nulla di nuovo dal 97 rispetto a questo che, ripeto, chiamiamo l'esclusione, se piace più di discriminazione, di Israele, non essendoci stato nessun fatto nuovo, era indispensabile diventare l'unico Stato che ha ospitato per la terza volta dei giochi, che nel bene e nel male, cioè per mille motivi storici che non dipendono dallo sport ma dipendono di più dalla politica, va bene, sarà tutto vero, però contiene una così evidente discriminazione. Ecco, insomma. Andrea da Brescia. Hey, buongiorno. Senta, io quello che ho detto prima alla vostra collaboratrice, io pratico windsurf a livello agonistico, sono nella squadra di interesse olimpico, saluto il dottor Pescante, e tra noi atleti questi problemi non ci sono. Proprio nel mio sport ci sono due fortissimi israeliani, c'è un egiziano, un algerino, noi partecipiamo a meeting internazionali, agli europei, come diceva il dottor Pescante, ci sono gli israeliani, fra l'altro anche agli europei per esempio da noi possono partecipare fuori classifica anche persone che non sono europee, e spesso noi ci troviamo, ecco, ma queste mangiamo... cose che lei dice, Andrea, queste cose che lei dice che sono, rendono ancora più inspiegabile il fatto dei giochi del Mediterraneo. Ma no, secondo me invece, siccome la mescolanza c'è in tante attività sportive, in tanti settori, in tanti rami, anzi lo sport è più avanti della politica, perché nei giochi del Mediterraneo no? Io quando stiamo lì... No, la domanda non la facevo a lei, la facevo a Pescante. Non mi interessa se uno è israeliano, lo devo battere. Questo è evidente. Basta, non è, capisce? Questo è evidente. Ma siamo amici per la pelle a volte, veramente. Cioè. Ma anche io vedo questi ragazzi israeliani, l'egiziano, che scherzano, ridono. E siamo in un altro mondo veramente rispetto a quello che sto sentendo questa mattina. Ecco, tanto più in quanto lei dice queste cose molto belle, molto vere, molto autentiche. Se gareggiano Pescante dappertutto, come mai noi per la terza volta, come diceva Berardelli, ospitiamo una manifestazione in cui invece la discriminazione obiettivamente, fattualmente c'è? Dunque, innanzitutto per certi aspetti, come dire, sarei d'accordo con chi è intervenuto prima sulla opportunità di organizzare una terza volta in Italia per tanti motivi. Infatti già che sia stato nominato commissario straordinario, questo discorso l'abbiamo fatto prima della trasmissione, in questo momento il paese ha altri problemi e francamente tutto questo infittirsi in manifestazioni internazionali, un momento delicato dal punto di vista economico, politico, del sistema Italia, io francamente devo dire non è che l'abbia accolto con entusiasmo. Ho appoggiato la candidatura del mio paese perché andava appoggiata, ma voglio dire con tiepido entusiasmo. Detto questo però, ma nello sport ci sono delle regole. Le regole sono le seguenti: per i giochi olimpici, per i campionati continentali, per i campionati delle federazioni, il boicottaggio, la discriminazione è punita severamente dal CIO, con la squalifica. Insomma, dopo Mosca 1980, quando gli Stati Uniti d'America boicottano quei giochi, l'Italia fu presente, così come fu presente nella Coppa Davis in Cile del fascista Pinochet. Quindi vuol dire, il nostro paese è sempre stato stato, come dire, coerente con se stesso. Il problema è che per i giochi regionali, caraibici, baltici, mediterranei, non valgono quelle regole. Cioè, i paesi che si riuniscono desiderano di fare dei giochi perché sono attorno al lago procedono maggiore. Per cooptazione, sono un club inclusivo, esatto, che quindi può essere capisco anche capisco che non è una spiegazione, ma questa è la realtà giuridica. Va bene, mi hai molto simpatico Pescanti quando dice capisco che non è una spiegazione, ma ve la do lo stesso. Ha ragione. Ma la spiegazione giuridica certo, vi do. Certo, non è una spiegazione, diciamo, civile, morale, tanto meno morale, è ovvio. Va bene, grazie a Raiman, a Belardelli e a Pescante, grazie a tutti voi, a Franca Fossati in redazione, a Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini e Giorgio Matè, la linea al giornale radio e poi a Gianluca Nicoletti con Mailog 2.0. A domani.